Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge ogni tipo di notizia e dibattito attraverso il filtro dell'animalità, cercando cioè gli altri animali nelle notizie di attualità, cultura, economia, medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e tanto altro ancora. Questa è la puntata numero 681, nella quale parleremo del Darwin Day e del significato frainteso dell'evoluzionismo, di come silenziosamente le armi siano entrate nelle scuole, di animali usati per squalide vendette e di due modi opposti di intendere la ristorazione fast food. Non mancherà una ricetta vegana a tema a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il montaggio musicale di questa puntata è curato da Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Sta verificando uno strano fenomeno. Non siamo più in grado di evitare l'impatto devastante della specie umana sulla natura con le conseguenti estinzioni di specie. E allora abbiamo appaltato alla scienza e alla tecnica il compito di trovare soluzioni. Questa però è l'ammissione della nostra sconfitta. Questa è la nostra lettura del Darwin Day, una ricorrenza proposta il 12 febbraio scorso dal WWF, che ha voluto celebrare il grande scienziato ricordando 5 specie salvate dalla scienza: lupo, serpenti, pipistrelli, lince e rinoceronte bianco. Il Darwin Day è la giornata dedicata al padre della teoria dell'evoluzione e ispiratore della scienza della conservazione. Il WWF indica 5 storie di specie animali un tempo a rischio o vittime di pregiudizi e leggende, che grazie al progresso scientifico sono state rivalutate, protette e salvate. Per esempio il lupo, sull'orlo dell'estinzione negli anni 70 del secolo scorso in Italia, grazie anche al WWF, al Parco Nazionale d'Abruzzo e ai primi studi scientifici, l'immagine di questo animale è stata riabilitata. La scienza ha svelato la sua grande capacità di movimento e la sua socialità, pur essendo il lupo molto elusivo e notturno. Altri animali salvati dalla scienza sono serpenti e pipistrelli, le vipere per prime, ma anche natrici, biacchi, cervoni e le diverse specie di chirottero che vivono nel nostro paese sono state nei secoli perseguitate e uccise perché considerate simbolo del male. La scienza ha mostrato però che i serpenti sono in realtà abili cacciatori di roditori, importanti tasselli degli ecosistemi dove vivono, mentre i pipistrelli sono aiutanti nel contenimento degli insetti e in particolare delle zanzare. Scienza e ricerca hanno avuto un ruolo fondamentale per la conservazione o per aver salvato specie ormai considerate da anni condannate all'estinzione. Ci sono altri esempi celebri come la lince iberica, che è la specie di felide più minacciata al mondo. Nel 2002 ce n'erano 94 in natura, ormai sull'orlo dell'estinzione, ma dal 2006 è stata implementata la riproduzione in cattività e la popolazione di lince iberica ha oggi più di 1300 individui in natura. Poi il rinoceronte bianco settentrionale, che si è estinto in natura nel 2008. Negli anni scorsi restavano in vita solo 2 femmine, madre e figlia, in cattività. E dopo molti tentativi, nell'agosto 2019, gli scienziati sono riusciti a fecondare in vitro gli ovuli dalle ultime 2 femmine sopravvissute. Bene, questo è quello che afferma il WWF. A noi però sembra che questa impostazione sia decisamente sbagliata. Intanto non si salvano gli animali soltanto perché ne riconosciamo un ruolo di utilità. Qui, per esempio, viene sottolineato il fatto che i serpenti cacciano i roditori e che i pipistrelli mangiano tanti insetti. Non ci sembra un'impostazione corretta. Ma soprattutto tutte queste operazioni sembrano di tipo conservazionistico. E tutto questo ha poco a che fare con Darwin, che ha avviato una rivoluzione epistemologica e scientifica aprendo la strada a una prospettiva completamente diversa rispetto al conservazionismo, una prospettiva evoluzionistica. Abbiamo chiesto a Francesco De Giorgio, etologo, evoluzionista e attivista antispecista, di spiegarci perché queste due prospettive sono così radicalmente diverse. Quando noi immaginiamo la vita sulla Terra, come la immaginiamo? La immaginiamo come qualcosa di dinamico o di statico? Ecco, in base a come la immaginiamo, noi abbiamo due prospettive molto diverse e anche molto antitetiche. Generalmente, dal punto di vista di un conservazionista, che tendenzialmente ha una prospettiva culturale che tende a mantenere saldamente lo status quo, quasi a farlo diventare un museo, la prospettiva è quella statica, cioè che le cose vanno tenute così come sono sempre state e così devono sempre essere, che è totalmente, devo dire, anche in maniera risibile, diversa da quella dinamica. Quella dinamica è quella evoluzionistica, quella darwiniana, quella che proprio fonda le teorie dell'evoluzione sul mutamento, sul cambiamento, sull'estinzione, sulla nascita di nuove specie. Da dove viene questa paura del mutamento? Da dove viene questa paura di comprendere le cose in maniera dinamica? Certo, diciamo, immaginare di creare un mondo statico, da un certo punto di vista, dà più sicurezza, ma è una sicurezza falsata, anche molto pericolosa, se ci si pensa, perché tende proprio a fare gettate di cemento per mantenere lo stato odierno delle specie, mentre invece il mutamento, la dinamica, il caos e anche il caso sono state le terminologie chiave dell'evoluzionismo, che quindi prevede un continuo mutamento delle specie in base all'ambiente che vanno a incontrare, a conoscere, in base ai tempi, in base alle situazioni ambientali. E quindi comprendere questo ci permette di non essere statici. Questo cosa implica? Poi nel nostro voler aumentare i livelli di tutela per alcune specie, che guardiamo a quelle specie non come qualcosa da tutelare in maniera discriminante, nel senso, voglio dire, tuteli solo alcune specie e non tutto il sistema, cioè vai a tutelare il lupo ma non il cinghiale, perché? Perché questo? Vai a tutelare un cervo ma non il muflone. Perché? Da dove viene questo? Perché c'è così paura del cambiamento? Questo non ha nulla a che vedere con la scienza, ma più con delle paure personali, consce o inconsce, collegate proprio alla comprensione del dinamismo della vita, che tutto cambia, cioè che nulla è predefinito, nulla è fermo, ma è tutto in movimento. Ecco, questo movimento di vita, questo movimento di animalità, questo movimento di specie è veramente la chiave di lettura importante per comprendere chi siamo noi tutti animali, da dove veniamo noi tutti animali, cosa comprendiamo e come ci possiamo muovere per innalzare i livelli di tutela della biodiversità e del diritto a vivere questo pianeta da parte di ogni singola specie, ogni singola soggettività animale. I'm gonna make a whole world do it. I'm hustling and taking body off. Don't shove up all the light, not even for one night. You know there's no reason for love. No, I'm never too late. The sun don't love the day. And I'm not here just to play. Try to make a world do it. You're hustling and taking fire on. No shine up all the lights, no shut the fields alight. giorno fa, in un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa, era stata raccontata con tanto di virgolettati una conversazione che sarebbe avvenuta tra il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni, e il generale Franco Federici, consigliere militare del Premier. Dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole. C'è tutta una rete di associazioni che si possono coinvolgere e mettere in contatto con il mondo della scuola, avrebbe aggiunto il sottosegretario, secondo il quotidiano. Fazzolari però smentisce seccamente e definisce questo articolo ridicolo e infondato, per cui sarebbe anche pronto a querelare il giornale. Dopo questa vicenda, l'associazione animalista LAV ha diffuso un comunicato stampa nel quale fa notare che sebbene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari abbia smentito di voler promuovere la pratica del tiro a segno e dell'uso delle armi nelle scuole italiane, gli istituti scolastici sono comunque già coinvolti in una promozione del tiro a volo, ovvero lo sport che consiste nel colpire un bersaglio in volo con un'arma da fuoco. La LAV fa notare infatti che la società Sport e Salute è un'azienda di proprietà statale, il cui azionista unico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze. E questa azienda avrebbe già finanziato un progetto in questo senso, che si chiama CARE, un acronimo, ed è realizzato dalla Federazione Italiana Tiro a Volo, la FITAV, per promuovere questo sport fra i giovani e attivare anche dei campionati italiani studenteschi. La FITAV ha annunciato ufficialmente l'avvio del progetto e ha condiviso l'elenco degli istituti scolastici già coinvolti in Puglia e in Lombardia. Le smentite del sottosegretario Fazzolari sono quindi in contrasto con quanto è stato comunicato dalla FITAV, che è la prova che i fucili e le pistole sono in qualche modo già entrati nelle nostre scuole. Come si legge sul sito della FITAV, il progetto prevede lezioni in classe e pratica negli impianti di tiro a volo, con tecnici specializzati nella formazione dei ragazzi alle prime armi. E questo progetto interesserebbe 8 regioni italiane. Sport e Salute è un'azienda di Stato, quindi è evidente che il governo, attraverso una società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta impegnando fondi nella promozione dell'uso delle armi in ambito scolastico. Inoltre, la FITAV è strettamente legata al mondo della caccia. E LAV, attraverso le parole di Giacomo Bottinelli, responsabile ufficio a scuola con LAV, si domanda se non si tratti dell'anticamera delle proposte legislative della maggioranza parlamentare per estendere la caccia anche ai sedicenni. L'associazione LAV, Lega Antivivisezione, è da sempre assolutamente contraria a qualunque attività che promuova l'uso delle armi, tanto più quando questo uso coinvolge alunni e alunne. La scuola italiana, in base alla legge 92 del 2019 sull'educazione civica, dovrebbe portare avanti, al contrario, azioni volte ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. LAV, infine, si appella al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti per bloccare il finanziamento alla FITAV, chiedendo di impegnare Sport e Salute a impedire in futuro qualunque utilizzo dei propri fondi a scopo di promozione dell'uso delle armi. Seguiremo questa vicenda per capire come va a finire. Dopo la famosa canzone di Shakira, altri cuori spezzati si stanno organizzando per vendicare l'amore tradito o finito. Uno dei modi più vili, tra tutti quelli che potevamo immaginare, è quello organizzato niente poco di meno che dallo zoo di Sant'Antonio, Texas, negli Stati Uniti. L'idea è la seguente: dare il nome del proprio ex o della propria ex a uno scarafaggio che finirà poi nelle fauci di qualche animale. Questa discutibile quanto macabra idea per festeggiare San Valentino, destinata a chi ha avuto il cuore infranto, arriva dallo zoo di Sant'Antonio, Stati Uniti, e manco a dirlo, ha avuto un grande successo. Donne e uomini dal cuore spezzato hanno aderito non solo da tutti e 50 gli stati a stelle e strisce, ma anche da oltre 30 paesi in tutto il mondo. L'idea, ovviamente di marketing, è semplice quanto evidentemente catartica. Per $10, cioè circa 9 euro, lo zoo assegna a uno scarafaggio il nome di una persona che ora non è più così speciale, per poi farlo mangiare da un animale. Secondo lo zoo, questa iniziativa avrebbe anche la natura di raccolta fondi, con tanto di nome Cry Me a Cockroach, e sosterrà la fauna selvatica in Texas e in tutto il mondo. Lo zoo ha pensato anche a chi, seppur con il cuore infranto, non vuole infierire sul povero scarafaggio. Coloro che non amano gli insetti possono invece scegliere un ortaggio per 5 dollari. A chi invece degli animali poco importa può scegliere un'opzione più consistente, con un roditore a 25 dollari, cioè circa 23 euro. Tutti i donatori ricevono un biglietto digitale di San Valentino che mostra il loro sostegno allo zoo. Possono anche scegliere di inviare al loro ex un biglietto digitale di San Valentino per informarli che uno scarafaggio, un roditore o un ortaggio è stato chiamato con il loro nome ed è finito in pasto a un animale. L'iniziativa assume le caratteristiche quasi di sadismo. Con un pacchetto, diciamo, premium per 150 dollari si può anche mandare un videomessaggio personalizzato al destinatario che mostra il momento della brutta fine per l'incolpevole scarafaggio, roditore o ortaggio. Neanche a dirlo, secondo i media americani l'iniziativa ha avuto un grande successo. Per chi invece volesse trasformare la rabbia in vero amore, consigliamo di farsi un giro al canile e di adottare un cane o un gatto giovane o anziano che avrebbe tanto da dare e che non chiede di essere pagato. Passiamo a due notizie di tipo gastronomico per registrare la nascita di due realtà. Entrambe opereranno nel fast food, ma con impostazioni diametralmente opposte. A Roma nasce l'altra steakhouse nel quartiere Parioli. Si chiama Impact Food e si proclama la prima steakhouse sostenibile della città. Alcuni giornali hanno pubblicato le loro recensioni dalle quali emerge un concetto di ristorazione veloce che però apre lo sguardo del consumatore e lo conduce verso scelte alimentari rivoluzionarie. Il locale è aperto da 2 mesi nel quartiere dei Parioli, da sempre un quartiere capitolino d'élite, ed è chiaro che si tratta di una scelta commerciale posizionata verso l'alto. Può sembrare un luogo da giovani, pensando alla sempre crescente attenzione che le nuove generazioni rivolgono all'ambiente, ai Fridays for Future, all'età di Greta Thunberg, ma chi ci è andato ha registrato in realtà un'età dei frequentatori piuttosto alta. Anche i prezzi sono medio-alti, il panino farcito viene tra i 12 e i 15 euro. Leggendo vari articoli e vari test, notiamo che questi valutano soprattutto tenacità al morso, consistenza della carne, sapore e succulenza. In sostanza, è stato studiato quello che cercano i carnisti, ammesso e non concesso che per loro quel tipo di non carne possa rappresentare un'alternativa concreta più duratura di un semplice assaggio anche questa perché mangio di tutto. Impact offre i burgers, i nuggets, ovvero crocchette di pollo, e i nachos conditi con abbondante chili di fagioli. Le crocchette di pollo sono del brand Heura e, leggiamo qui ancora le recensioni, sotto i denti la polpa interna è indistinguibile per sapore e consistenza da quelli di tante catene di fast food. Morbida e non cedevole la carne di pollo, sapore avicolo non ruspante, ma in linea con quanto si è ordinato. Ci sembra interessante questa descrizione dettagliata delle sensazioni corporee che prova chi mastica la carne. È ormai chiaro che in futuro le proposte vegetali andranno a moltiplicarsi. Nonostante questo, gli amanti della carne continueranno a mangiarla. E per chi ama la cottura al sangue, Redefine Meat propone addirittura la tagliata, che ha la capacità di mantenere succulenza umida come una cottura al sangue. Ma il fast food Impact vuole lanciare un messaggio ai suoi ospiti che va anche oltre il cibo. Sul sito e sul menù sono indicate le risorse ambientali risparmiate rispetto ai piatti di origine animale, senza tecnicismi didascalici ma con brevi riferimenti. La proposta alimentare è stata studiata con la consulenza di Funny Veg Academy e ogni dettaglio del ristorante trasuda l'etica delle loro scelte, dai tessuti ricavati da filati a base di bottiglie di plastica alla pittura usata per le pareti in grado di purificare l'aria eliminando sostanze inquinanti. Non è certo l'attivismo antispecista, ma hanno fatto del loro meglio e quando passerete da Roma, se vi va, andate a fare un test e mandateci le vostre impressioni. Qualcuno guarda al futuro con hamburger sostenibili e cruelty free, l'onda lunga della tradizione insiste a sfruttare animali per profitto, ammantando questo crudele, facile e banale orientamento con argomentazioni di tipo nutrizionistico. È quello che accade al ristorante milanese Pane e Trita di via Muratori, dove arriva l'hamburger a base di insetti che si chiamerà Grillo Cheeseburger. Ha debuttato, infatti, la prima pietanza a base di farina di grilli e si presenta in un bel panino verde brillante arricchito da formaggio, verdure e salsine. Il 24 gennaio l'Unione Europea ha autorizzato la vendita di prodotti alimentari ricavati da alcuni insetti, tra cui la farina della specie di grillo domestico, che ha come nome scientifico Acheta domesticus. Ma non sono i grilli presi nei campi, provengono da allevamenti controllati e certificati. Questo è quello che dice Pane e Trita, il ristorante milanese di via Muratori. E subito i ristoranti fantasiosi hanno intuito le nuove possibilità, si sono organizzati per procurarsi questa farina e poter confezionare piatti da proporre nei ristoranti. Pavel Ruggero e i suoi soci, che hanno appunto fondato il ristorante Pane e Trita nel 2015, si riforniscono da un'azienda di food tech, la K di Muggio, specializzata in prodotti innovativi, che importa la farina da un produttore finlandese, dove i grilli crescono in allevamenti super controllati con acqua e terreni puliti. L'hamburger di Pane e Trita è fatto con farina di grillo, fagioli cannellini, patate al vapore, olio di semi di girasole, pane grattugiato. Non è vegetariano, ovviamente, anche se non contiene nessun tipo di carne convenzionale. La comunicazione di questo alimento si concentra sulla sua ricchezza in vitamina B12, ferro, fosforo, sodio, calcio e fibre. Sebbene la farina di grillo, va detto, per il momento è quasi inaccessibile. Il suo costo, infatti, è 70 euro al chilo. Sebbene Ruggero vada dicendo ci piacciono le innovazioni, a noi della redazione di Restiamo Animali non sembra esserci niente di realmente innovativo e di ambientalmente sostenibile nell'ammassare animali rendendo le loro vite pure agonie per poi cibarsene, quando la natura offre proteine e ogni altro nutriente necessario in alimenti di origine origine vegetale. Dunque, vi abbiamo presentato due fast food differenti tra loro. Uno, quello di Roma, si chiama Impact Food, l'altro, assolutamente tradizionale, a Milano si chiama Pane e Trito. A voi, signori e signore, la scelta. Anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. Il tema della ricetta di oggi è il Darwin Day. Sentiamo qual è la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Da un punto di vista si potrebbe affermare che ogni piatto a base vegetale rappresenti di per sé un passo evolutivo e quindi adatto ad essere letto come omaggio a Darwin. Ma se poi il piatto è anche antispreco, la dedica è perfetta. Quindi gli ingredienti per 4 persone per i provenzali al limone e pepe rosa sono 300 g di mollica di pane toscano raffermo, 600 ml di brodo vegetale, 300 g di farina del tipo 0, qualche grano di pepe rosa macinato, la scorza grattugiata di un limone, noce moscata, sale, olio extravergine di oliva. Tagliate il pane a tocchetti e lasciatelo in ammollo nel brodo vegetale fino a quando sarà ben ammorbidito, quindi tritatelo con un frullatore ad immersione riducendolo a crema. Aggiungete la farina, la scorza di limone, il pepe rosa e la noce moscata e impastate il tutto aggiustando di sale. Lasciate riposare un quarto d'ora e nel frattempo portate ad ebollizione una pentola con abbondante acqua leggermente salata. Riempite una sacca à poche con l'impasto dei provenzali e con l'aiuto di un coltello o di un paio di forbici formate dei cilindretti stretti e lunghi facendoli scivolare nell'acqua direttamente dal bordo della pentola. Quando saliranno a galla, scolateli e versateli in un contenitore con acqua fredda, per poi metterli in una bowl con un filo di olio. Al momento di servirli, immergeteli nuovamente per pochi minuti in acqua bollente, scolateli e conditeli a piacere, anche semplicemente con una sfumata di olio extravergine, aglio e salvia. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Questa puntata è tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Valentina Baronti e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 682 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde. Stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.